Il gastronauta di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata. Buona giornata. Oggi siete pronti a prendere appunti e salire in macchina? Vi porterò a fare un bellissimo viaggio tra masserie, trulli, vino, cibo e ottimi ristoranti. Ebbene, cominceremo questo viaggio e il viaggio sarà nell'Alto Salento. Ebbene, la Puglia in questi ultimi anni è balzata alla ribalta sicuramente come uno dei territori più interessanti, più intriganti per il turismo enogastronomico soprattutto, ma anche per il suo mare, per carità. Ma diciamo che cibo, vino e bellissimi luoghi hanno attratto moltissimi turisti da tutto il mondo, e ci sono posti famosissimi. Abbiamo fatto anche in passato degli itinerari, ma mai ce l'hanno occupati dell'Alto Salento. Ecco, si conosce ormai il Salento è diventato famosissimo soprattutto per la sua festa musicale, che ormai attrae tutto il mondo. Ma noi oggi andremo a scoprire dei borghi veramente molto molto intriganti e sicuramente da visitare. Bene, io inizio questo viaggio, ho parlato prima, saliamo in macchina. Bene, saliamo in macchina, magari andiamo ai box. È una battuta, ma ora capirete perché. Buongiorno a Cesare Fiorio. Buongiorno, buongiorno. L'ultima volta che ci siamo sentiti mi hai detto vai su Nannini che è un pezzo sicuro, e così fu. Allora, Cesare, so che tu sei diventato anche una guida importante di questo territorio, perché so che hai fatto l'assessore al territorio e hai una bellissima masseria. Perché, ecco, ti chiedo così, perché un turista enogastronomico, un turista dovrebbe venire in questo territorio? Guarda, io sono arrivato qui 14 anni fa per caso nell'Alto Salento, e mi sono subito innamorato di questi luoghi, al punto che nel giro di 4 anni ho liquidato tutti i miei altri interessi e mi sono trasferito qui. Perché, mi dicevi? Per la qualità della vita, l'aria che si respira, il cibo che si mangia, la gente che incontri, la cordialità degli abitanti del luogo, e sono tutto un mix di cose che ti fanno veramente sentire bene in questi posti. Ecco, la tua masseria offre quindi ospitalità sia, diciamo, di camere che anche di ristorante, di ristorazione. Allora, io ho una masseria che è un agriturismo. Noi siamo nati come azienda agricola, la mia masseria si chiama Masseria Camarda. E l'azienda agricola, abbiamo iniziato a produrre le cose tipiche del territorio, che sono l'olio, evidentemente, l'olio extravergine d'oliva di qualità superiore, produciamo il vino, che è un primitivo mescolato con dell'Ottavianello, questo è il nostro blend. Certo. Di vino, ma produciamo anche grano, produciamo ortaggi, legumi, frutta, e anche la filiera corta che da questa deriva, cioè le passate di pomodoro, le marmellate, produciamo tutte queste cose. Quindi si mangia, facciamo anche ristorazione. Quindi si mangia tutto a metro zero, non a chilometro zero. A metro zero e soprattutto noi siamo un'azienda agricola biologica. Io, questo era un mio pallino tutto il tempo, avevo sempre in mente di mangiare cose sane, e così ho deciso di produrmele in proprio. Ecco, oltre alla tua masseria e sicuramente a Celie, vuoi indicare ai nostri radioascoltatori che verranno magari sicuramente a fare un viaggio in quel territorio un luogo particolare che, diciamo, consiglieresti? Ma diciamo che Celie Messapica è meta di un turismo abbastanza sofisticato nelle richieste, non nei prezzi, perché qui costa tutto, per fortuna, molto poco. Però Celie Messapica è conosciuta soprattutto come capitale della gastronomia qua in Puglia. Ci sono ristoranti con la stella Michelin, come il Fornello da Ricci, che è un ristorante, diciamo, top qui della Puglia, ma ci sono anche grandi ristoranti come Cibus o trattorie simpatiche come il Borgo Antico, o posti dove si mangia il pesce in maniera straordinaria come il Brigantino, che a San Michele Salentino, proprio vicino a Ceglie. Insomma, qui diciamo che la gente viene dall'Adriatico, dallo Ionio, noi siamo un po' a cavallo tra i due mari, la gente viene qui per mangiare e la qualità è trasversale al prezzo. Poi diciamo che c'è anche un bel paesaggio, insomma, quindi oltre che mangiare si visitano anche dei posti molto, molto interessanti. Sto pensando a San Vito dei Normanni, per esempio, a Carovigno, insomma, quindi sicuramente ci sono posti anche da visitare, quindi da stare più di un giorno in questo territorio. Ma qui diciamo che intanto questa è la zona dei Trulli, è l'unica zona dei Trulli della Puglia. I Trulli non sono in tutta la Puglia, sono nella Valle d'Itria, dove ci sono questo gruppo di borghi straordinari, che sono appunto, oltre a Ceglie Messapica, Ostuni, Cisternino, Martina Franca, Loco Rotondo, Alberobello, sono tutti a 7, 8, 10 chilometri l'uno dall'altro, per cui uno si può fare dei bei giri e vedere dei borghi straordinari e vedere questo territorio dei Trulli, che è molto particolare, non è una cosa che si incontra tutti i giorni, per cui certo, è una bella girata che si può fare. Tra l'altro tutti i nomi che hai fatto ricordano cibo, perché Martina Franca è il capocollo, Loco Rotondo il vino, sì, Carovigno i fornelli, quindi diciamo che c'è veramente un po' di tutto, la conosco abbastanza bene quella zona e quel ristorante del fornello da Ricci ci sono capitato ben 25 anni fa, quando ancora c'era il Papa Ricci, quindi sicuramente poi ne parleremo con Antonella. Grazie a Cesare di averci fatto da guida iniziale, grazie e buon lavoro. Buon lavoro anche a voi. Grazie. Bene, ora passiamo, abbiamo parlato di vino e ora andiamo in un'azienda vinicola importante. Andiamo a Santa Barbara da Pietro Georgiani. Buongiorno Pietro. Buongiorno a lei. Lei è un famoso enologo e quindi con lei vorrei parlare di questo territorio dell'Alto Salento e di vini. Lei ha, diciamo, curato, ritrovato, rimesso sul mercato un vitigno autoctono importante, il Susamamello. Ecco, come c'è voluto tempo per, diciamo, rimetterlo e così rivinificarlo, metterlo sul mercato e farlo conoscere? Beh, ci è voluto del tempo perché praticamente è un vitigno che produce poco e come tale praticamente è il primo che è stato distrutto. Ah, quindi è stato distrutto nel senso che nessuno poi lo coltivava più? Perché praticamente negli anni dal 70 all'80 quasi produceva per le distillazioni. Allora un vitigno che non produceva praticamente non vendeva e veniva estirpato, insomma. Senta, oltre a questo vitigno autoctono importante, mi dice un po' quali sono gli altri vitigni e le altre produzioni di vino della sua azienda? Beh, noi produciamo, oltre al Susamamello, produciamo del Negramaro, del Primitivo, dell'Eleatico e dei blend praticamente tra Primitivo e Negramaro e Eleatico e Primitivo. Si chiama Barbaglio questo misto, vero? Questo Barbaglio, sì, è praticamente un blend di Negramaro e Primitivo. E poi abbiamo un Ursamaier praticamente che è l'inverso come blend del taglio del Barbaglio. Il Barbaglio praticamente è all'80% di Negramaro, 20% di Primitivo. Ursamaier è all'80% di Primitivo e il 20% di Negramaro. Lei ha creato, la sua famiglia ha creato anche un museo, si può visitare questo museo? Sì, non è ancora molto, diciamo, non è completo proprio, comunque è già visitabile, insomma. Quindi è un... Prego. Sì, dico. No, praticamente siamo andati a ritrovare delle attrezzature piuttosto antiche, anche perché ci siamo messi d'accordo con delle scuole, insomma, perché i giovani oggi, i ragazzi, non conoscono niente, né sanno niente praticamente della vecchia civiltà contadina e dei sacrifici che sono stati fatti prima, insomma. Infatti c'è anche giovani di 40 anni praticamente che, ripeto, sono come se vivessero a Milano, insomma, non sanno niente della nostra civiltà contadina. Peccato, ma è così in tutta Italia. Io direi grazie, la ringrazio, grazie, ma direi di chiudere questa prima parte in musica, perché siamo in una terra che, come ho detto prima, è diventata molto famosa per i suoi balli. il gastronauta. Eccoci in viaggio nell'Alto Salento. Ora facciamo tappa a Ceglie Messapica. Bene, Ceglie Messapica è un po', come posso dire, il borgo del mangiar bene, quindi abbiamo anche una regina in questo borgo. Buongiorno ad Antonella Ricci. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno dottore Paolini, ciao. Ciao del Fornello da Ricci. Allora, Antonella, questa terra che è molto, molto fertile dal punto di vista dei prodotti, lo è anche dal punto di vista, se vogliamo, delle ricette, della tradizione dei piatti? Sicuramente sì, noi abbiamo veramente da scegliere, anzi ogni giorno si può fare una pietanza diversa, anche due volte al giorno, come no, certo, certo. Sì, sì. Ma dacene qualche esempio di qualche piatto veramente legato così al territorio. Beh, adesso è il momento proprio degli ortaggi a frutto, no? Quindi io parlerei proprio veramente adesso di melanzane, di peperoni, di zucchine, per esempio della melanzana. Adesso me ne vengono due o tre ricettine così semplici: la melanzana soffritta con all'interno del pecorino e capperi, soffritta in olio extravergine d'oliva e poi sfumata con l'aceto di vino rosso, questa è una. Poi la melanzana farcita, quindi la melanzana ripiena, la classica melanzana ripiena. E quindi all'interno viene messo il cubetto di melanzana profumato con la menta, con il pecorino, con l'aglio e quindi poi cotta nel forno. Quindi questa è un'altra ricetta. Senti, ma nel borgo, nel territorio, è ancora molto diffusa la tradizione di farsi la pasta in casa, di mangiare a casa? Oppure... Sì, no, per fortuna ancora questa tradizione c'è. Specialmente diciamo nel centro oppure nelle campagne, quindi ci si riunisce per mangiare tutti insieme, quindi la domenica è sempre ancora una festa, per fortuna è rimasta così, e quindi la gente si riunisce, magari si confeziona la pasta tutti insieme e poi si mangia insieme magari in campagna oppure nel centro storico. Le orecchiette, sì, per fortuna sì. L'orecchietta si fa sempre. Si fa sempre a mano, sì. Sì. Anzi, si insegna anche a fare, perché comunque nei borghi nostri tante signore magari si mettono fuori con la spianatoia, si mettono fuori proprio dalla porta di casa e continuano a fare orecchiette fino a quando non finiscono. Quindi la gente passa nei borghi, vede come si fa l'orecchietta, si interessa, e quindi questa è cultura gastronomica, diciamo, fatta in casa. Ecco, a proposito di cultura gastronomica, so che a Ceglie tu hai promosso una scuola di cucina, se non erro. Sì, infatti proprio oggi abbiamo una lezione dimostrativa per i ragazzi, stiamo facendo il recruiting dei ragazzi, dei nuovi diciamo cuochi che si avvieranno nel mondo del lavoro. Sì, è una scuola di cucina che si chiama Mad Cooking School ed è proprio a Ceglie Messapica, è un progetto di Angelo Ricci, che era mio padre, guardava sempre in avanti, portato avanti un po' da tutta quanta la famiglia, e adesso è diventata realtà, quindi veramente mi sento veramente felice e orgogliosa di questo traguardo. Senti, ma a proposito di tuo padre, che io ho conosciuto, ma il rosolio al caffè lo fate ancora così buono? Sempre, sì, con il caffè antico, che è una piccola torrefazione di Ceglie Messapica, sì, lo facciamo sempre, come lo faceva la nonna, lo fa la mamma, adesso lo facciamo io Vinod in cucina, come no. Ecco, hai detto una piccola torrefazione, quindi a Ceglie Messapica c'è anche una piccola torrefazione di caffè. Una piccola, sì, torrefazione che ha 51 anni. Quindi è una bellissima realtà, con un caffè fantastico, vanno a scegliere i chicchi e poi li lavorano qui a Ceglie, hanno una piccola torrefazione e noi veramente siamo consumatori ormai da 50 anni. Ci dai il nome, così magari qualche sì. Turista che vuole... Come no, la torrefazione si chiama proprio Torrefazione Antico, che è il cognome della famiglia. Beh, antico il nome della famiglia. Grazie. Il cognome della famiglia. Grazie a voi, Antonella, grazie. Passate da Ceglie, arrivederci. Bene, passeremo di sicuro. Andiamo a Cisternino, provincia di Brindisi. Siamo qui, andiamo da Giuseppe Santoro, al salumificio Santoro. Buongiorno Santoro. Ciao Davide, buongiorno. E allora il capocollo è sempre buono, si fa sempre? Beh, il capocollo si fa sempre, cerchiamo di farlo sempre meglio, di migliorare sempre, perché la lavorazione artigianale che noi lavoriamo prevede tanti passaggi artigianali, e poiché l'artigianalità è sempre legato alle piccole imperfezioni, noi cerchiamo sempre di migliorarlo. Senta Santoro, la capitale, diciamo, il capocollo viene riferito a Martina Franca, ma è diffuso su tutto il territorio dell'Alto Salento, immagino, questo tipo allora, di produzione. Ecco, devo dire che questo prodotto tipico identificato come Presidio Slow Food capocollo di Messina Franca, oggi è una realtà di produzione dell'area della Valle d'Itria, quindi nell'Alto Salento, dove noi siamo a Cisternino, è l'area di produzione identificata ormai dallo Slow Food come produzione tipica di questo prodotto. Senta, fate anche un lardo particolare nel vostro territorio. Noi oltre al capocollo del Presidio abbiamo una lavorazione di salumi tradizionali del nostro territorio, tra cui una lonza lardellata. Quindi ecco, mi riferivo proprio a quella. Sì, facciamo una lonza che noi lavoriamo con cotenne e lardello, così con la stessa concia del capocollo, quindi lasciandola a marinare nel vincotto e affumicandolo con la corteccia di fragno. Quindi abbiamo preso la stessa tradizione del capocollo e l'abbiamo trasferita in un altro pezzo anatomico del nostro suino. Senta, ha parlato di corteccia di fragno, ho detto. Allora, sì, ecco, il disciplinare, ormai si parla di un disciplinare di produzione di questo prodotto, prevede la marinatura nel vincotto, sì, e l'affumicatura con la potatura del fragno, quindi il fragno fa parte della vegetazione della quercia di quest'area. Ah, quindi appunto tutto locale, quindi, sì, la affumicatura avviene in maniera particolare con questo tipo di... Sì, diciamo che l'affumicatura avviene in maniera diretta andando a bruciare, diciamo, questa potatura del fragno in ambienti chiusi, con la possibilità di far traspirare, diciamo, il fumo verso l'esterno, e quindi viene a contatto con il prodotto subito dopo essere tolto dall'insacco, dal sale, quindi subito dopo essere insaccato. Beh, ora mi viene in mente che abbiamo sentito prima Antonella Ricci e ora Giuseppe Santoro. Allora voglio ricordare un panino straordinario. L'altra settimana fa abbiamo fatto una trasmissione dei panini e devo dire che ho sentito veramente un panino straordinario fatto con il capocollo di Giuseppe Santoro, una salsa di tonno e dei carciofini, diciamo ideato da Antonella Ricci e realizzato da Giuseppe Santoro. Sì. Devo dire che è veramente un qualcosa di speciale. Ha avuto un seguito questo panino? Diciamo che ha avuto un seguito però sul nostro territorio, perché come ben ricordavi Davide, questa è stata una presentazione fatta a Firenze, sì, in un'occasione manifestazione importante, testi chiaramente, e dove effettivamente con Antonella abbiamo lanciato questo abbinamento, perché il panino oggi è un cibo che si sta riscoprendo sempre di più. Ci sono tanti amici che propongono oramai dei panini particolarissimi, certo, e noi ce ne siamo inventati uno, anche perché il panino fatto con il capocollo ormai è diventato anche il secondo panino premiato in Italia. Bene, io credo ai radioascoltatori che ve lo potete fare anche a casa se trovate appunto i prodotti buoni, sì, questo panino, perché è veramente interessante. Grazie a Giuseppe Grazie Santoro. Davide, l'aspetto a Cisternino. Andiamo da Cisternino, torniamo a Celje e Messapica, andiamo in un caseificio, perché questa qui è una terra che è molto ricca anche di caseifici e di formaggi. Buongiorno a Paolo Bruno. Buongiorno. Del caseificio Seppunisi. Signor Bruno, volevo chiederle questo. Diciamo che la zona della Puglia è famosa per la mozzarella vaccina. Sì. Ecco, viene fatta ancora come Dio comanda la mozzarella vaccina? Sì, in alcuni posti sì, come no. Viene ancora fatta come Dio comanda. Viene fatta a mano ancora? Certo, no. La mozzarella, il nodo è esclusivamente a mano. Non esiste macchina che lo possa sostituire. Ah, quindi non è come la mozzarella di bufala che la mozzatura si può fare a macchina. Qui si fa tutto a mano. Tutto a mano. Senta, qual è diciamo, oltre alla mozzarella, quali altri formaggi sono tipici della vostra zona e della vostra masseria? Il formaggio tipico della nostra zona, incominciamo dal cacio ricotta, che è un formaggio al latte bollito, pastorizzato, ed essendo un formaggio che mantiene benissimo alle zone aride, quindi alle temperature alte di questa zona, è un formaggio particolare di questa zona. Dopo le varie caciotte con latte bollito, quindi una caciotta abbastanza morbida, come io me la sono inventata, come ho dato il nome di uno zio di mio padre che si chiama Zio Nino. Interessante questa. Quindi, sì, quindi è un prodotto vostro personale, questo della vostra azienda? È un prodotto nostro personale, sì, io... la caciotta originale è fatta con i tre latti, la latte di pecora, latte di capra e latte di mucca. Ah, addirittura è un mix quindi di tre latti, sì. Molto interessante questa cosa. Si può fare anche con il latte vaccino oppure con il latte di pecora. Senta Bruno, ma il latte è sempre del territorio oppure arriva da fuori, cioè il latte vaccino, quello ha detto ovino e quello anche caprino? Oddio, nella mia azienda è tutto mio, quindi io sono un'azienda a filiera corta, quindi io mungo, abbiamo gli animali, li mungo la sera, la mattina diventano prodotti da freschi da mettere sulla tavola. Ah, quindi addirittura, cioè lei ha praticamente tutto a metro zero come sì, altri? Sì, filiera corta a metro zero, molto zero. Senta, si può comprare direttamente da voi? Sì, si può anche mangiare nella sua masseria? Sì, certo, si può comprare dalla nostra masseria, ci sta uno spazio aziendale e anche siamo anche presenti tramite i nostri siti che possiamo spedire un po' in tutta Italia, sempre ai consumatori diretti. Senza... Ecco, ma in masseria si può mangiare anche? Come masseria facciamo degli assaggi nel nostro punto vendita, facciamo degli aperitivi. Quindi, ma ci dia un accostamento, ecco, si parla sempre di mozzarella, in questo caso è vaccina. Qual è, diciamo, l'accostamento tipico che viene fatto nelle case, nelle vostre case oppure diciamo nel vostro territorio tradizionalmente? Viene mangiata la mozzarella così, diciamo, come... Sì, come la mozzarella di solito viene mangiata così, altrimenti viene mangiata con un filo d'olio, chi ama mettere un filo d'olio sopra con qualche pomodorino, ma giusto per... Però altrimenti la maggior parte la mangia tal quale, sente il sapore del latte, sente la differenza della mozzarella da un produttore all'altro. Quindi va a finire anche sicuramente su qualche pizza, immagino, la mozzarella. Certo che va a finire su qualche pizza. Ecco, l'80% chi dopo compra la mozzarella, no? Chi rimane si la mangia sulla pizza. Senta, ci dà un'indicazione, una pizzeria... Diciamo che usa i suoi prodotti ottima nel territorio, che così come consiglio ai nostri radioascoltatori? Oddio, le pizzerie sono abbastanza tutte ottime, quindi io sinceramente servo Antonella Ricci come ristorante. Ma come pizzeria ne serve qualcuno in particolare? Come pizzeria non ne servo qualcuno in particolare. Bene. Perché sento il prodotto un po' così, non trovano convenienza forse. Grazie a Paolo Bruno, caseificio Seppunisi, Ceglie Messapica. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in viaggio in questo bellissimo territorio. Abbiamo sentito Ceglie Messapica, abbiamo così visitato anche Cisternino, poi ora visiteremo altri borghi. Ma prima di andare in altri borghi e sentire altre realtà, come già avrete sentito, c'è di tutto. Però io voglio ritornare un po' in atmosfera in questo viaggio e voglio tornare un po' con così raccontare il territorio in musica prima di passare ai nostri ospiti. Ecco la pizzica che ha così fatto conoscere in tutto il mondo questo territorio del Salento, però siamo in Alto Salento, ma anche qui sicuramente la tradizione è molto importante. Ora sentiamo una gastronauta di questo territorio, una diciamo una giornalista che conosce un po' tutto, il vino, i borghi, i luoghi, i cibi. Buongiorno da Antonella Millarte. Buongiorno Davide, buongiorno Italia. Buongiorno Italia, beh, insomma, non siamo così ancora divisi, non siamo nel 1861. Comunque, no, cara Antonella, io vorrei che tu così suggeristi delle suggestioni ai nostri radioascoltatori. E vorrei che tu mi dessi dei luoghi un po' così strani, sconosciuti, dove visitarli, dove poter andare. Ma io inizierei innanzitutto dall'oasi di Torre Guaceto, perché da buona gastronauta, come dici tu, mi piacciono i posti belli ma da poter anche mordere, assaggiare, gustare. E Torre Guaceto è un'oasi spettacolare, ha non solo la possibilità di tuffarsi dal mare cristallino, ma di poter gustare il pesce che i pescatori allevano e pescano seguendo tutte quelle che sono le regole della natura. Qui Slow Food ha formato una cooperativa e questa cooperativa produce rispettando le antiche regole. Noi oggi questi prodotti possiamo assaggiarli. Ma io ho assaggiato i pomodori, poi i pomodori che sono la passata, i pomodori che sono straordinari, vero? Il pomodoro fiaschetto è senz'altro un prodotto straordinario che fa sempre parte dei cosiddetti ori del parco, ma la cosa bella è che non è più indispensabile essere solo in Puglia, perché questi pomodori li lavorano, quindi li possiamo avere anche nel vasetto. Questo dà la possibilità di far viaggiare questo prodotto, che è il pomodoro fiaschetto, ben oltre il territorio. Ma se ci piacciono i pomodori, qui nell'Alto Salento non possiamo dimenticare anche il pomodoro Regina, che cresce sempre su questa costa, un po' più in alto, siamo verso la zona di Savelletri di Fasano, zona comunque bandiera blu. Parliamo di posti straordinari, questo è un altro pomodoro che dice già il nome, è totalmente diverso, il fiaschetto ha la forma di un fiaschetto, ha una dolcezza, un brix completamente differenti, il pomodoro Regino ha quel ciuffetto sopra che lo attacca appunto alla pianta, che sembra una corona, da qui il nome, anche coltivato ancora con le piante di cotone. Senti Antonella, tu hai parlato in questa riserva naturale anche di pesci ed altro, quindi si può anche mangiare? Mangiare nella riserva no, mangiare i prodotti del parco sì, acquistarli sì, ma c'è anche un altro prodotto straordinario che è quello degli oli da olivi secolari, ma si può fare bird watching, ci sono i capanni, si può fare una passeggiata in mezzo alle dune straordinaria. Secondo me è uno di quei parchi, se si è in Puglia, assolutamente da vedere, per una giornata diversa, per un bagno diverso e tornando con un carico di prodotti e di sapori da poter poi gustare la Puglia dopo. Bene, tu mi hai dato perfettamente, come posso dire, il succo di un itinerario che volevo dare ai nostri radioascoltatori, cioè ci hai descritto il luogo, ci hai descritto i prodotti. E Antonella, io ti ringrazio, grazie, e continuiamo questo bellissimo viaggio, e ora andiamo a Carovigno, un altro borgo che abbiamo citato, appunto uno dei centri dell'Alto Salento. Andiamo da Teodosio, buongiorno, dell'osteria già sotto l'arco. Buongiorno Teodosio. Buongiorno dottor Paolini, ben trovato, buongiorno. Buongiorno, ma perché si chiama già sotto l'arco? Perché questa, che io e mia moglie gestiamo, questo ristorante, non è altro che un'osteria di famiglia, e noi siamo la terza generazione. Siccome era collocata nel centro storico, in un'altra sede, e si chiamava sotto l'arco per quel nome spontaneo che la gente dava ai luoghi, perché l'insegna reale era solo osteria, e siccome bisognava attraversare un arco per arrivarci, la gente del posto andiamo sotto l'arco, e abbiamo dato questo nome. Senta, ci siamo trasferiti in un'altra sede, nella piazza del paese, era difficile dare un nome, dare un nome al ristorante è veramente difficile. Allora ho detto, teniamoci la storia, il sotto l'arco, e ci mettiamo il già sotto l'arco come continuità storica. Delle tre generazioni, senta, ma delle tre generazioni in cucina cosa è rimasto? Guardi, è tutto, è rimasto tutto, perché le dico subito, logicamente non è la stessa cucina, lo stesso ristorante, la stessa osteria, ma chi ci ha seguito nel lungo percorso di evoluzione, di trasformazione del ristorante, non se ne è accorto, perché i passi sono sempre stati molto, molto lenti, seguendo quella che comunque resta una tradizione. Oggi io faccio questo lavoro da sempre, non abbiamo più niente a che vedere con il tipo di ristorazione di 30-40 anni fa, incominciare dalle tecnologie a tutta una serie di cose. Certo. È cambiato, sicuramente che è cambiato. Mi dà così qualche indicazione di qualche piatto particolare? Io penso che noi, i nostri piatti, cerchiamo l'essenzialità nel piatto, una cucina molto semplice dove la materia prima deve parlare e deve esprimersi. Non cerchiamo di evitare una cucina fatta di effetti speciali e di fuochi pirotecnici, per cui i nostri sono sempre piatti molto, molto essenziali. Le triglie sfilettate e poi leggermente scottate in padella croccanti, dove deve saltarsi la triglia, la burrata abbinata alla pasta cataifi, alla salsa di pomodoro, un filetto di olio al basilico e due fettine di capocollo di Martina Franca, dove è rappresentato veramente tutto il territorio regionale. Abbiamo appena tolto dalla carta un piatto che secondo me era fantastico, ed è per esempio le orecchiette fatte in casa con grano Senatore Cappelli, con cozze e piselli. Un piatto semplice, tre elementi, ma dal gusto incredibile, perché la dolcezza del piselli e la sapidità delle cozze, non so perché, sono magie naturali che nascono poi grazie all'intuizione di Teresa, che è mia moglie, anche l'artefice della cucina. Senta Teodosio, ha detto l'abbiamo tolto perché diciamo non si trovano più piselli freschi? Certo, la stagionalità penso che sia uno degli elementi da seguire. Ecco, ma le orecchiette in questo momento sono in carta con un altro condimento o proprio le avete tolte? In questo momento abbiamo tolto le orecchiette e proprio stamattina abbiamo fatto un piccolo briefing con Teresa, perché dobbiamo inserire dei piatti tradizionali, perché in questo periodo, lei sa benissimo, la Puglia è uno dei punti più, una delle regioni più importanti, certo, per quanto riguarda il turismo. E siccome viene gente da tutto il mondo, anche il nostro ristorante, insomma, e vogliamo dare l'opportunità di mangiare i piatti tradizionali, quindi adesso inseriremo da questa settimana, da domani cominciamo a mettere sia le fave con cicoria, la ciceriettria, che lei sicuramente sa che cos'è. No, sì, ma lo spieghi ai nostri radioascoltatori. Già, è vero, la ciceriettria è un piatto tipico del Salento, un po' più giù che si fa da noi, però anche qui sono sempre elementi essenziali, sono i ceci con delle tagliatelle fatte in casa. La caratteristica del piatto sta nel fatto che la pasta viene, una parte viene lessata e bollita normalmente, e un'altra parte viene fritta e quindi è croccante. Il tutto si condisce con un filetto di olio, elementi di qualità. Il nostro lavoro oggi, quello mio in modo particolare, è nella ricerca. Penso, dopo tanti anni di esperienza, quello che posso fare meglio è provare prodotti. Certo che devo dire buoni, che i prodotti non vi mancano, perché abbiamo sentito, no, ci sono prodotti straordinari in tutto il territorio. Teodosio, io la ringrazio, lo ricordo, dell'Osteria Già Sotto l'Arco di Carovigno. Grazie e buon lavoro. Bene. È un privilegio stare qui con lei. Grazie. Beh, molto. Grazie, arrivederci. Torniamo ogni volta torniamo a Ceglie Messapica, e devo dire che è proprio veramente una capitale incredibile, perché a questo punto anche la pasticceria ha una sua espressione, con il biscotto celiese. Buongiorno Giuseppe Allegrini. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allegrini, e ci racconti com'è questo biscotto? Dunque, io partirei col dire che biscotto celiese è il più buono biscotto di mandorla di tutto il Salento, Bene, bene, va bene crederci così, sono d'accordo con lei, bisogna crederci nelle cose. Bisogna provarlo, sì, certo. Provarlo. Vado avanti. È una passione che mi prende da tanti anni, cioè questo biscotto celiese. Ecco, biscotto celiese, vi racconto in due parole, cioè sì, è un antico biscotto di tradizione contadina, quindi ha antiche tradizioni, in pratica di certo non si sa di quanti anni è, però sicuramente sono centinaia di anni che si produce questo biscotto celiese. Dico centinaia di anni perché tutti gli ingredienti comunque sono del territorio di Ceglie, cioè dalle mandorle, alle uve, al miele, alla scorzetta di limone, al rosolio di limone, sono tutti prodotti che nascono nel territorio di Ceglie. Senta, che mandorle ci sono a Ceglie? Beh, di varietà ce ne sono tante, perché il territorio di Ceglie è molto vasto, quindi abbiamo quasi 40 varietà di mandorle, tutte autoctone. Quindi quella più prelibata sarebbe la mandorla celiese, o detta pure mandorla la Rivietz. Senta, lei fa solamente questo tipo di biscotto o produce anche altri dolci a base di mandorle? Sì, tanti altri prodotti produco, sì, con le mandorle, dall'amaretto alla pasta secca, alla reale. Però sono, anche se parlo di amaretti, comunque è un amaretto rivisitato, cioè me lo sono personalizzato in pratica, con tutti gli ingredienti, ripeto sempre, del territorio. Quindi diciamo anche l'amaretto è fatto in casa, una battuta, certo, cioè fatto con i prodotti del territorio. Certo, perché poi alla fine sono mandorle amare, mandorle dolce, zucchero, miele, La scorzetta di limone io ce la metto dappertutto perché è fresco, perché da quell'aroma giusto, certo, che liga con la mandorla, tutto là. Bene, un grazie a Giuseppe Allegrini, produttore non solo del biscotto ciegliese, ma come abbiamo sentito anche di tanti altri prodotti a base di mandorle. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in questo meraviglioso viaggio nell'Alto Salento. Abbiamo sentito come questo territorio sia veramente ricco di prodotti. Io credo che manchi veramente poco per avere, come posso dire, una copertura completa per la spesa. Abbiamo sentito di pomodori di una riserva naturale, abbiamo sentito addirittura di una piccola torrefazione, abbiamo sentito delle mandorle, poi abbiamo sentito dei prodotti tipo formaggio. Insomma, veramente una varietà incredibile come in poche altre parti d'Italia. Ma io voglio tornare un po' anche sul clima, perché il clima, diciamo, di festa e musicale di questo territorio è importante. Conosciamo tutti un po' il grande successo che ha avuto il Salento con la pizzica, ma sentiamo appunto di tornare un po' sulla musicalità di questa terra. Ecco, direi che questa musica è completamente l'opposto, sembrerebbe l'opposto di quanto detto, ma è un po', come posso dire, un ricordo. Dicevo prima che in questa terra ormai il turismo enogastronomico veramente è arrivato in maniera incredibile e l'ospitalità ne ha decretato un grande successo. Abbiamo parlato, dicevo, di tanti prodotti e mancava un po' in questo viaggio l'olio. E allora andiamo alla masseria Brancati di Ostuni, forse il centro più popoloso di tutti questi borghi che abbiamo visitato. E buongiorno a Corrado Rodio, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Senta, la sua masseria ha degli olivi veramente che mi dicono storici, addirittura secolari. Beh, più che secolari, in realtà sono millenari. Ah, ecco. Sono millenari e questo è stato dimostrato sia storicamente che scientificamente, per cui ci sono tanti esemplari di circa 2000 anni e addirittura qualche esemplare che probabilmente ha superato i 3000 anni. Senta, la cultivar più diffusa nella sua masseria di olive? Nella mia masseria, ma in tutta la zona, sì. La cultivar è l'Oliarola Tarentina, che è la varietà che si identifica proprio con questi alberi millenari. E quindi producete un olio monocultivar oppure c'è anche blended? Allora, la mia azienda produce solamente monocultivar, quindi non solo quello di Oliarola Tarentina, ma anche quello di Coratina, che è un altro olio tipico pugliese, eccellente, e anche la cima di Melfi. Poi dall'Oliarola Tarentina, a seconda del grado di maturazione delle olive, vengono fuori diverse qualità, chiaramente, e diversi fruttati. Senta, lei fa agricoltura biologica da molti anni? Sì, la mia è un'azienda biologica ormai da 7-8 anni, e quindi, insomma, questo da garanzia non solo del prodotto, ma anche per dell'ambiente salubre, no? Perché ci occupiamo anche di ospitalità. Ah, ecco, appunto, quindi, stavo chiedendo questo. Quindi un ambiente incontaminato e niente, la situazione più grossa è quella nel vedere adesso quanti animali e quanti uccelli sono tornati qui a riprodursi, a nidificare. Senta, il vostro non è... Abbiamo per esempio i gheppi o le poliane, che non si erano mai visti prima, adesso vengono puntualmente, e addirittura l'anno scorso c'erano delle gru che sono venute a pascolare nei miei terreni. Avete un agriturismo quindi? Sì, adesso è un bed and breakfast, ma diciamo a breve saremo agriturismo, che penso la formula più consona a quello che facciamo, la nostra attività. Ecco, oltre olio, quali altri prodotti producete come masseria? Io sono specializzato sull'olio. Ah, ho capito. Quindi faccio solo olio, non mi va di, almeno per il momento. Bene. Non mi va di fare altro. E quindi faccio oli da cucina, oli fruttati leggeri di eccellenza, oli fruttati medi, intensi, e faccio anche un aromatizzato al limone e lime del mio agrumeto, con gli agrumi del mio agrumeto. Niente, organizzo anche delle visite guidate, faccio delle degustazioni, e tutti i mercoledì di luglio e agosto organizzo delle degustazioni didattiche, dove insegno a riconoscere quali sono i pregi e i difetti degli oli. Perfetto per i nostri radioascoltatori questa indicazione, quindi chi andasse in zona della masseria Brancati ad Ostuni, sicuramente in agosto appunto c'è questa opportunità. La ringrazio Corrado Rodio, grazie, ricordo appunto masseria Brancati Ostuni, e sempre a Ostuni rimaniamo, andiamo al relè La Sommità, andiamo dallo chef del ristorante Cielo. Buongiorno Sebastiano Lombardi. Buongiorno, buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Quindi siamo ad Ostuni, perché diciamo che c'è anche Ostuni Marina, quindi perché cioè Ostuni non è solamente un centro storico, ma anche il mare, è vero esatto. Lombardi? Sì, sì, sì, c'è tutta la parte di Villanova, Monticelli, che veramente merita. Poi quest'anno è stata, diciamo, di nuovo premiata con 5 bandiera blu, quindi una bellissima zona. Senta, il pesce com'è nella sua zona? Si trova facilmente pesce fresco? Beh, sicuramente bisogna stare dietro i pescatori per andarsi a trovare il pesce buono. E tutta la zona di Torre Guaceto comunque è un'ottima zona di pesca, e logicamente anche la zona di Savelletri, Brindisi, sì, sì, sì, sì, c'è dell'ottimo pesce. Senta, quindi ha parlato della riserva. La riserva, sì. Quindi ci sono molti pescatori ancora? E beh, ci sono 3 o 4 pescatori che hanno delle licenze, solo quelli possono andare a pesca, e logicamente poi distribuiscono il pesce ad alcune pescherie o a privati, quindi è una pesca di nicchia, diciamo, non molto... Ecco, e le specie che lei lavora di più nel suo ristorante quali sono? Beh, a me piace, vabbè, io lavoro tantissimo le triglie di Torre Guaceto, poi nello stesso tempo anche degli scorfani neri, insomma, di fondale, questi pesci qua. Quindi pesce di fondale si trova? Sì, esatto. Ho capito. E le triglie come le cucina? Beh, adesso il piatto che ho in carta è una triglia con una parmigiana di zucchine e dell'induia calabrese e una salsa di stracciatella affumicata. E poi viene cotta leggermente sulla pelle e poi finita in salamandra per qualche minuto. Oltre il pesce, ha anche altre specialità di carne nel suo locale? Sì, ho delle specialità a base di terra, tra cui la pancia di maialino, la podolica, che è un altro prodotto, certo, che si sta, diciamo, aprendo molto alla Puglia, nel senso che comunque viene molto utilizzata adesso. È una carne che veniva utilizzata per... soprattutto una mucca che veniva utilizzata più per il latte, però adesso si sta riscoprendo questa sua particolarità, che non è molto grassa, però con la frullatura giusta rimane molto intensa e morbida come sapore. Perché ha le fibre molto... Sì, molto racchiuse, quindi veramente un sapore che diciamo che si contraddistingue. Senta Lombardi, un dessert particolare? Un dessert particolare che noi facciamo adesso in questo periodo qui, è una cassatina di ricotta con una mousse al latte di capra, con del rabarbaro, una composta di rabarbaro e un gelato, un sorbetto, mi scusi, al pepe timut. Senta, diciamo che visto anche i prodotti che lei ha sciorinato nei suoi piatti, sì. La ricchezza appunto del vostro territorio è talmente grande che vi lascia un po' un imbarazzo anche sulla scelta. In effetti abbiamo l'imbarazzo della scelta un po' su tutto, da quello che concerne il mare, la terra, i prodotti caseari, abbiamo molta scelta, poi spetta solo a noi, diciamo, non troppo lavorarla, però dare un concentrato di essenza pura nel piatto, senza troppa trasformazione. Ecco, ho sentito che i suoi piatti sono, diciamo, molto, molto, cioè sono elaborati, e sì. Il turista che arriva, lo straniero o l'italiano, non chiede la tradizione piuttosto, le orecchiette o d'altro? Oppure... Ma infatti la tradizione è racchiusa nei miei piatti, nel senso che comunque ci sono dei piatti che sono, li lascio a una carta appunto di solo i piatti tradizionali, dove il cliente può scegliere tra una cosa quello un po' più rivisitato e quello un po' più tradizionale, quindi gli diamo comunque sempre la scelta, senza diciamo costringerlo ad andare in quel percorso gastronomico gourmet. Diciamo, mi dà due o tre piatti della tradizione che sono nel suo... quello principale è l'acqua sale. Poi cioè? Me lo spieghi. È un piatto di verdure semplici, crude, con una zuppa di pane e logicamente questo è molto semplice, tradizionale. E poi abbiamo le candele di Benedetto Cavalieri con una crema di pomodoro fresco fatanese, dei peperoni cruschi e della ricotta salata. E poi come secondo del capretto, con adesso è periodo di melanzane, quindi con una parmigiana di melanzane e del pomodoro affumicato. Il dolce della tradizione, c'è anche un dolce? Sì, c'è un dolce della tradizione che diciamo cambia di solito in vari periodi, in vari momenti, il pasticciotto leccese che diciamo sì, straordinario. Quello un po' più con la marena, quello con la marena. Esatto, un biscotto friabile con della crema, della marena e una leggera, diciamo, un leggero sorbetto alle mandorle. Mamma mia, pericolosissimo il pasticciotto, non so quante me ne mangerei. Va bene, mi viene in mente ora quando specialmente caldo al mattino, è una roba strepitosa. Esatto. Senta, un'ultima cosa le volevo chiedere, Lombardi, i vini, ecco, arriviamo ai vini, la qualità del vino pugliese sta crescendo dopo tanti anni? Sta crescendo perché comunque abbiamo delle ottime aziende, delle ottime cantine, degli ottimi produttori. Mi faccio qualche nome? Beh, il nome ce ne sarebbero tanti da fare, sarebbe una sfilza. C'è Gianfranco Fino, c'è Paolo Leo, c'è Liveli, Tormaresca, Torrevento, insomma ce ne sono tante veramente che adesso non so elencare, sì, ma ce ne sono. Le dirò il mio preferito, sì, il Nero, sì, di Troia, sì. Invece io... anche il Negramaro di... Negramaro, diciamo che non scherza. Io sono convinto che il Nero di Troia sia il più grande vitigno pugliese, che magari viene sottovalutato. Bene, che Sebastiano Lombardi, chef del ristorante Cielo del Relais La Sommità di Ostuni. Abbiamo finito questo viaggio a Ostuni, un viaggio bellissimo, avete sentito, ricco di prodotti, ricco di ristoranti, ricco di luoghi da visitare. Allora io ringrazio in redazione Anita per aver fatto un duro lavoro per raggiungere telefonicamente i nostri ospiti e il nostro alpino milanista. Bene, grazie a tutti e buon weekend e alla prossima settimana.